U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24, da Silvia Bernardi. Il presidente della Commissione europea, Juncker, ha presentato il libro bianco sul futuro dell'Europa, con 5 possibili risposte alla domanda Quo vadis Europa, sottolineando che si tratta di un'Europa 27. Oggi il nostro compito, ha detto, è quello di mostrare ciò che l'Europa può e non può fare, sottolineando per esempio che l'Europa da sola non può combattere la disoccupazione. Non possiamo offrire la Luna, ha continuato, in alcuni casi tutto ciò che possiamo fare è offrire un telescopio. Juncker ha delineato 5 percorsi possibili: continuare, nient'altro che il mercato unico, chi chiede di più deve impegnarsi maggiormente, fare meno in modo più efficiente e fare molto di più insieme. Ne parliamo con l'europarlamentare Michela Giuffrida. Sono le risposte sul futuro dell'Europa che vi aspettavate? Sinceramente no, perché probabilmente c'era stata grande aspettativa, ma sentire quello che è un discorso da educatore, come qualcuno ha detto, o da docente universitario, a me non sembrava assolutamente opportuno. Ci aspettavamo che la Commissione e il Presidente della Commissione esercitasse quello che è un indirizzo politico, non un diktat, come lo stesso Juncker ha detto, ma tracciasse una strada, facesse più che delle ipotesi, 5 ipotesi, indicasse il modo per uscire dalle secche in cui l'Europa si è condannata, soprattutto alla vigilia di un importante appuntamento, quello con il 25 marzo, con la celebrazione dei 60 anni dell'Europa. Non c'è più tempo, bisogna agire. Quindi Juncker non ha individuato dei percorsi fattibili? Ha prospettato 5 strade, senza indicare qual è quella che la Commissione intende percorrere. Ha disegnato 5 ipotesi, diciamolo francamente, 3 di queste ipotesi sono assolutamente non percorribili. Quella per esempio che dice che Europa significa soltanto mercato, ma ci mancherebbe altro, e lo stesso Juncker lo ha anche escluso. Bene, le soluzioni possibili, tanto per dirla con Juncker come se fossero delle buste, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, sono le ultime 2, la 4 e la 5, e sono 2 modi diversi, totalmente diversi, di intendere l'Europa. Il primo, quello che dice chi vuole può fare di più, e il secondo, facciamo tutto tutti quanti insieme. Dobbiamo disegnare un'Europa in cui c'è un gruppo di paesi che guidano questa entità che ci ha garantito 60 anni di pace e che è assolutamente irrinunciabile, e un altro gruppo di paesi che si adegua e nello stesso tempo non pone paletti, come è stato oggi, perché il processo dell'Europa è bloccato da chi è entrato da poco, vuole assolutamente condannarla, un'ipotesi che è totalmente un'ipotesi del passato. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.